non c'è bisogno di altro per far capire che ci troviamo di fronte a uno studioso di grande valore che fa un po' la spola tra la Germania e Roma per poter consultare attivamente anche i documenti romani indispensabili per la storia del Concilio di Trento. E quanto al professor Benà, prima di tutto noto che è molto importante che ci sia una voce francese accanto alle voci tedesche che abbiamo sentito questi giorni, che sentiremo ancora oggi e domani, una voce francese, perché il Concilio di Trento non riflette, non ha investito soltanto la storia italiana e quella tedesca, ma anche la storia francese, evidentemente, anzi, l'ideale sarebbe stato anche sentire una voce spagnola, ma non è possibile tutto. Ricordo del professor Benà, professor Arruin, soprattutto la sua collaborazione alla Histoire Générale du Christianisme, un tentativo di fare una storia generale piuttosto ampia, in una decina e più di volumi, con un'impostazione più aperta e più moderna. È prevista anche la traduzione tedesca di quest'opera. Credo che questo basti, e lascio senz'altro la parola al professor Gianzer. L'ecclesiologia del Concilio di Trento. Un dato di fatto specifico, questo concilio, che avrebbe dovuto dare una risposta alla riforma, non ha trattato il problema ecclesiologico. E questa l'osservazione di Conca per quanto riguarda il Concilio di Trento nel manuale di storia dei dogmi. E Giuseppe Alberico, nel suo contributo L'ecclesiologia del Concilio di Trento, ne tira le somme. Citazione: si deve anzitutto osservare che non esiste una dottrina trentina della Chiesa organica e compiuta. Un sistema ecclesiologico era al di fuori dei fini che il Concilio si era posto. Non si può ascrivere alla totalità dei padri conciliari una idea ecclesiologica univoca, nemmeno nel senso che essa sia stata presente in forma implicita e che sia stata la base del corpus delle decisioni che furono approvate. Fine della citazione. Va anzitutto osservato che non si dà una ecclesiologia unitaria nella teoria e nella prassi che resti a sé uguale come una costante attraverso i secoli. Sull'ecclesiologia influisce una mescolanza di elementi politici, sociali e comunitari della relativa epoca. Basti pensare a come i secoli delle monarchie hanno influito sulle strutture della Chiesa, oppure a quale influsso, sino ai nostri giorni, hanno i rivolgimenti sociali dei tardi anni 60 e 70 del nostro secolo sulla vita della Chiesa e sulle idee proprie di una concezione della Chiesa. Nel suo articolo Zur Entwicklung des Kirchenbegriffs im 16. Jahrhundert, Sviluppo del concetto di Chiesa nel XVI secolo, Hubert Hinding distingue un concetto di Chiesa curialistico, formatosi nel XIV secolo, che trasforma la teoria della Chiesa in una teoria papale. Un concetto di Chiesa conciliaristico, fondato sulla canonistica medioevale, e formatosi nella disputa attorno alla composizione del grande schisma, un concetto di chiesa spiritualistico rappresentato da Wycliffe e Hus, ma in forma perfezionata anche da altri riformatori del tardo medioevo, e infine apparentata con quest'ultimo la cosiddetta teoria storica della decadenza, che vede nella Ecclesia primitiva l'ideale di una decadenza progressiva nelle epoche successive della Chiesa. Rappresentanti di questa teoria sono rinvenibili da Dante sino a Savonarola. Queste classificazioni sono naturalmente delineate in maniera molto rozza e Hedin stesso lo ha colto. nella disputa con le posizioni dei riformatori, innanzitutto di Lutero, la teologia controrazzistica pre-ventina sottolineava soprattutto la struttura gerarchica della Chiesa e cercava di dimostrare l'origine divina del primato papale. Il più importante difensore del concetto curiale di Chiesa in quegli anni era Albertus Vipius con la sua opera Hierarchie Ecclesiastice Exaltatio. La natura mistico-sacramentale della Chiesa, tuttavia, non fu adeguatamente trattata in questi teologi controversisti pre-tridentini. Il Concilio di Trento non ha sviluppato, così si osservava, una concezione complessiva della Chiesa, e tuttavia nei suoi dibattiti e nelle sue deliberazioni si espressero numerose questioni ecclesiologiche. Primo, elementi di asserzioni implicite sulla natura della Chiesa. Giuseppe Alberico ha inviato in una serie di osservazioni, di asserzioni nei decreti di fede del Trentino Tridentino che contengono elementi di una dottrina della Chiesa più casuali, frammentari, senza che essi tuttavia fuoriescano da un progetto ecclesiastico complessivo. Nella terza sessione solenne del 4 febbraio 1546, il Concilio pose al culmine dei suoi lavori in maniera quasi programmatica la confessione di fede nicena. Come tutti sanno, in essa si trova la proposizione Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Questa proposizione, sottolinea Alberico, rappresentava in un certo senso l'unica formulazione universale ecclesiologica del Concilio. Un'ampia asserzione ecclesiologica si trova nel decreto sui sacramenti e precisamente rispetto al battesimo. Là si dice nel capo 4 «Si quis dixerit baptismum qui etiam natura hereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti come intenzione facente in quel pace d'Ecclesia non esserire un baptismum anatemas». Come osserva ancora a ragione Alberico, ciò comprenderebbe una importante asserzione sull'appartenenza alla Chiesa, cioè che membri della Chiesa sono tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo secondo lo Spirito e la lettera del Nuovo Testamento. Vogliamo ora rinviare un altro esempio. Nel decreto sulla comunione sotto le due specie, 16 luglio 1562, viene dichiarato che la Chiesa ha posseduto in tutti i tempi, nell'amministrazione dei sacramenti, fatta salva la loro sostanza, la sostanza e il mandato di definire e di mutare ciò che ad essa sembri la cosa più utile. Ciò significa, per citare ancora una volta Alberico, che l'ordine di amministrazione dei sacramenti dipende dall'autorità della Chiesa e che così si afferma implicitamente che la Chiesa è l'alveo attraverso il quale deve fluire l'opera della salvezza. Implicazioni ecclesiologiche si trovano tuttavia in gran numero anche in altre asserzioni o discussioni del Concilio. Secondo, divergenze sulla cerchia dei partecipanti al Concilio. A differenza dai concili di Costanza e Basilea, che avevano un'ampia cerchia di membri a pieno diritto, il Concilio di Trento fu di nuovo un'assemblea di vescovi. Nella bolla di convocazione, il 19 novembre 1544, Papa Paolo III invitò a Trento a partecipare con diritto di voto ai concili generali tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi, abati e tutti gli altri ai quali per diritto o privilegio spetta l'autorizzazione. I vescovi facevano parte anche i vescovi titolari. Inoltre, anche l'imperatore, i re e i principi furono pregati di partecipare al concilio di persona o attraverso rappresentanti. Anche nel secondo e terzo periodo Trentino fu invitata la stessa cerchia di partecipare. Nella prima congregazione generale del 18 dicembre 1545 si trattò di stabilire un rudimentale regolamento del concilio. Qui fu anche posta la questione a quali partecipanti spettasse pieno diritto di voto e quali dovessero avere soltanto un voto consultivo. Ciò portò a profonde controversie tra i partecipanti al concilio. Una parte dei padri conciliari voleva accordare solo ai vescovi e ai generali dei grandi ordini un pieno diritto di voto. Contro il voto decisivo degli abati, tuttavia, si sollevò in molti una più tenace opposizione. Si temeva che, se un gran numero di abati avesse partecipato al concilio, la posizione dei vescovi in esso avrebbe potuto essere sminuita. Alcuni consideravano gli abati e i generali dell'ordine, favoriti dal Papa, un pericolo per i vescovi. Il vescovo di Chioggia, Macchianti, si lamentava del fatto che era spiacevole che agli abati spettasse il privilegio della mitra e del bastone. Gli abati usurpavano, lui dice, quasi l'intera giurisdizione vescovile. Fu infine accettato come compromesso la proposta del presidente del Monte di accordare agli abati della congregazione di Monte Cassino, Santa Giustina, nel loro insieme un solo voto. Altri abati, presenti nel secondo e terzo periodo, possedevano pieno diritto di voto, giustificato di nuovo con il diritto all'uso di bastone e mitra. Già prima del Trentino la partecipazione degli abati ai concili generali era stata teoricamente discussa e particolarmente nell'opera del concilio di Dominicus Jacobazzi. Egli così argomenta: poiché gli abati, secondo il diritto ecclesiastico, non devono necessariamente partecipare ai concili provinciali, essi non vanno invitati neppure ai concili generali. Il deliberare, statuire e il reformare dei concili dipende ciò dalla giurisdizione, la quale però spetta solo ai vescovi, non agli inferiores sacerdotes. Jacobazzi rifiuta l'opinione di Niccolò dei Tedeschi, secondo la quale gli abati sarebbero in possesso di una giurisdizione quasi episcopale. Se abati altri superiori dell'ordine partecipano ai concili, allora si tratta solo di un esercizio della consuetudine. Terzo, controversie sulla posizione dei procuratori. Il problema dei procuratori sta in stretta relazione con il diritto alla partecipazione dei vescovi. Si tratta della questione se i vescovi possano farsi rappresentare ad un concilio, e ciò anche mediante una persona priva della carica vescovile, ovvero della consacrazione vescovile. A Trento tale questione sfociò sempre di nuovo in violente dispute. Nella vola di convocazione del Concilio, Paolo III aveva invitato i vescovi impediti secondo diritto ad inviare legittimos nuntios et procuratores. Soprattutto i procuratori dei vescovi tedeschi, quasi da nulla rappresentati nel primo e terzo periodo trentino, richiesero sempre un pieno diritto di voto. Dopo diverse evitazioni e sciocchezze da parte del Papa e dei legati conciliari, rispetto alle quali non possiamo qui entrare nel particolare, questo diritto fu rifiutato ai procuratori e fu loro concesso soltanto di riferire al concilio i motivi dell'impedimento dei loro signori. Sono interessanti i motivi adotti durante le dispute conciliari per negare il diritto di voto dei procuratori. In questo contesto si è riferito anche ad alcuni pareri che l'avvocato consistoriale Silvio Lancelotti e un certo dottor Tomasus avevano espresso sulla questione. Io ho trovato questi trattati in Concilio Vaticano e sto preparando l'edizione per gli atti del Concilio. Secondo Lancelotti, i procuratori non possono ricevere alcun diritto di voto in quanto si richiede la industria persone dei vescovi che vanno chiamati al Concilio. Questa però non può essere ceduta ad altri. Lancelotti argomenta inoltre che quando i vescovi nel Concilio danno i loro voti sono ripieni dello Spirito Santo, il quale tuttavia non sottostà alle regole del diritto. Inoltre, un votum decisivum spetta solo a coloro che possiedono la potestas clavium, e perciò incarnano nella loro qualità di successori degli Apostoli un potere superiore nella Chiesa. Con Giovanni da Torre Cremata, Lancelotti è dell'opinione che, ad eccezione della convocazione dei vescovi, non si sia una regola fissa per i partecipanti ai concili generali. La forma concreta dei concili dipende dal Papa, il quale può convocare questi o quelli a seconda delle circostanze. In un altro parere viene adotta l'argomentazione che la decisione sulle questioni di fede ed altri importanti oggetti può essere trasferita solo electissimis sacerdotibus, ma non ai procuratori. Se si abbracciano con uno sguardo i punti di vista avanzati nei detti trattati e nelle dichiarazioni del Papa e dei legati, emerge un'immagine variopinta di argomentazioni che non sempre si armonizzano logicamente. In che consiste la citata industria persone? Viene essa ricevuta attraverso l'ordinazione vescovile, oppure da parte del potere giurisdizionale, oppure è semplicemente una competenza tecnica? Per i canonisti conciliari, nella decisione di questioni di fede nel concilio, la industria persone non trasferibile spetta ai vescovi, agli abati e ai generali dell'ordine come tali che in virtù del loro ufficio sono ispirati dallo Spirito Santo. Se si considerano i motivi ecclesiologici del rifiuto del diritto di voto dei procuratori, ci si sorprende della leggerezza con la quale si aggiudica al Papa e in parte al Concilio il diritto di conferire ex gratia o di privilegio anche ai non vescovi pieno diritto di voto nel Concilio. Un aspetto del problema che i procuratori tedeschi misero in gioco fu del tutto ignorato da parte della Curia, la rappresentanza delle chiese particolari nel Concilio. L'argomentazione dei procuratori tedeschi ha questo tenore: se i procuratori dei vescovi tedeschi vengono esclusi dalla partecipazione al Concilio, la Chiesa tedesca non viene rappresentata. Infatti i suoi vescovi sono di frequente impediti da venire al vento a causa dei disordini provocati dalla riforma. Il complesso delle discussioni sulla questione dei procuratori al Concilio, come già prima, le meditazioni sulla missione degli abati, fanno sentire la mancanza di una motivazione ecclesiologica pensata a fondo in maniera conseguente del diritto di partecipazione dei vescovi al concilio e di un rifiuto o di un'ammissione di non vescovi a Trento. Quarto, le dispute sul papalismo e il gallicanesimo nel concilio. Nel contesto della trattazione del decreto sul Borgo e di quello sulla residenza nel terzo periodo trentino del concilio, si giunse a dibattiti approfonditi sul primato papale e sul rapporto tra ufficio papale e chiese locali. Già all'inizio delle discussioni sul progetto di un decreto sul Borgo, prelati spagnoli si presentarono con la rivendicazione che il Concilio possa stabilire che i vescovi sono insediati da Cristo per diritto divino, iure divino, e che per diritto divino sono superiori ai sacerdoti. Il vescovo riceve da Dio tanto il suo potere di ordinazione, potestas ordinis, quanto il suo potere di guida, potestas jurisdictionis. L'esercizio concreto in una diocesi determinata gli viene invece assegnato dal Papa. Per gli spagnoli non si trattava di porre in questione l'autorità papale, bensì di rafforzare l'ufficio del vescovo. Essi temevano che il Papa potesse abusare del suo potere. Retroscena, tale diffidenza erano le esperienze risalenti all'epoca dei Re Cattolici. Gli sforzi di realizzazione di radicali riforme della Chiesa furono molto spesso intralciati dalle estensioni, specialmente dei capitoli del Duomo, che si rivolgevano a Roma, come pure dalle dispense papali, dai privilegi, eccetera. Quindi i vescovi spagnoli parlavano in difesa anche di una motivazione dell'obbligo di residenza di iure divino per i vescovi. Il generale dei gesuiti, Jacob Leiner, si oppose radicalmente. I vescovi, egli sottolinea, ricevono il potere di ordinazione immediatamente da Dio, ma la giurisdizione nella sua interezza immediatamente dal Papa. Quindi non si può qualificare la potestas episcoporum come una potestà di iure divino. Furono i francesi a portare un nuovo elemento nel dibattito sull'orto. Essi provenivano dalla loro tradizione gallicana e ciò significava soprattutto che per loro il concilio era superiore al Papa. Il conciliarismo era, secondo la formula che le diede l'ambasciatore francese a Trento di Ferrier, non solo la fede inamovibile della Chiesa di Francia, ma i francesi prestarono un giuramento su questo articolo di fede come vero e irrinuncibile. A metà novembre 1562, il gruppo dei prelati conciliari francesi sotto la guida del cardinale Charles Guise di Lotaringa fece il loro ingresso a Trento. Essi intervennero nelle discussioni sul decreto sull'orgo secondo le loro concezioni gallicane. Non possiamo seguire qui nei particolari l'intero complicato evento e la lotta dei mesi seguenti attorno alla formulazione del decreto sull'orgo, scritto alcuni anni fa articolo su questo argomento. Nel gennaio 1563 la Curia Romana presentò il progetto di un canone in cui la potestas papale era parafrasata con i termini del Concilio di Firenze. Il Papa ha ricevuto da Cristo il mandato pascendi, regenti e governanti universali di Ecclesia. I gallicani però non riconoscevano il carattere ecumenico del Concilio di Firenze. Nonostante tutti gli sforzi di trovare formule di compromesso e di cercare possibili soluzioni. Il vescovo di Bibbie scrisse il 1 febbraio 1563: dalla mattina alla sera, anzi da un'ora all'altra, si mutano clausole, linee e parole. Allora, non si giunse ad un accordo tra i rappresentanti della concezione romana, del primato e i francesi. Questi ultimi non erano affatto disposti a riconoscere il titolo papale Universalis Ecclesiae Episcopus. Infatti esso costituiva un pregiudizio rispetto alla loro convinzione che il Concilio è superiore al Papa e che questi sia sottomesso al potere di quello. Dall'altro lato, il Papa voleva in ogni caso evitare una discussione sulla questione se il Papa sia superiore al Concilio o questo al Papa. Dunque, una discussione sulla questione del potere. Dispute, controversie senza fine, così scrisse Borromeo ai Legati, ne sarebbero la conseguenza, particolarmente in una discussione di questa natura, e ciò ostacolerebbe un buon proseguimento del Concilio in altri punti. Dopo dispute di mesi, anche al nuovo legato Morone non riuscì di realizzare un accordamento. Il risultato fu un grande stralcio del decreto sul porto nella stesura finale. Già precedentemente Borromeo aveva scritto a Trento che era, citazione, disconveniente il far dogma in sì gran contraddizione dei voti come avevano in questa materia. Fine citazione. Il Concilio rinunciò a eliminare in maniera contenutisticamente più precisa il primato papale, come pure il riparto tra primato e episcopato, e anche la questione del carattere sacramentale della consacrazione vescovile restò aperta. Nell'insieme delle dispute tra concezione romana, ovvero curiale, e concezione francese, si trovarono di fronte due diverse concezioni della Chiesa, più precisamente due diverse concezioni del primato. La concezione romana, per la quale il Papa è Ecclesiae Universalis Episcopus, parte da una concezione, come fu chiamata negli anni, collettiva del primato, secondo la quale la Chiesa nel suo complesso è una unità, un grande ambito giurisdizionale al cui vertice sta il Papa. I singoli vescovi ricevono il loro potere di ordinazione da Dio, ma la loro giurisdizione dal Papa. La concezione francese intende invece il primato come, dicono, distributive, in qualità di centrum unitatis. Questi formano una comunione. Qui sta alla base, in un certo senso, l'idea del principio di sussidiarietà. Secondo la concezione dei francesi, rappresentante della Chiesa complessiva è il Concilio universale, al quale anche il Papa è sottomesso. Quinto, implicazioni ecclesiologiche del decreto sull'ordo, il sacerdozio e la questione della gerarchia. Le faticose discussioni sul decreto sull'ordo non portarono solo ad un urto tra concezione del primato romana e gallicana. Le controverse discussioni portarono anche a importanti decisioni nella definizione del sacerdozio, dell'ufficio di vescovo, ovvero gerarchia. La genesi del decreto sull'ordo e le implicazioni ecclesiologiche sono state di recente oggetto di ricerca di una dissertazione di Friburgo, Josef Freitag, Sacramentum Ordinis of dem Concil von Trient, ausgeblendeter Dissens und erreichter Konsens. Italiano Sacramento Ordinis al Concilio di Trento, dissolvenza finale del dissenso e raggiungimento del consenso. Si possono ricordare qui solo i risultati più importanti. Il Tridentino ha consapevolmente lasciato indecisa la questione della concezione fondamentale del sacramento dell'ordo. Ci si limita a condannare gli errori dei riformatori. La sacramentalità dell'ordo non fu discussa. Secondo il Concilio, il mandato eucaristico, cioè la di consacrazione, penitenza, appartiene certamente al sacramento dell'ordo, ma non costituisce il punto d'inizio della comprensione di questo e neppure la sua determinazione essenziale. Il motivo del perché non si partì dal sacerdozio e dai suoi mandati era che in tal modo l'ufficio vescovile sarebbe scomparso dall'orizzonte visuale. In conseguenza degli interventi spagnoli e francesi, tuttavia, fu proprio l'ufficio vescovile ad essere collocato in una posizione chiave e posto al centro delle discussioni. La particolarità teologica e la qualificazione ecclesiologica dell'ufficio vescovile non furono tuttavia chiariti a sufficienza, poiché non ci si poteva accordare sulla definizione giurisdizionale dell'ufficio vescovile nel suo rapporto con il primato papale. Il decreto sull'ordo nomina come gradi gerarchici istituiti da Dio i vescovi, i sacerdoti e i ministri. L'ufficio vescovile occupa il grado più alto. Ma questa gerarchia viene espressa soltanto sotto l'aspetto di gerarchia di ordinazione. Il Concilio ha consapevolmente lasciato aperta la dimensione giurisdizionale e quindi il luogo ecclesiologico e il significato del sacramento dell'ordo per la struttura complessiva della Chiesa, in quanto su questi punti un accordo non era possibile. A tal riguardo, secondo la formulazione di Freitag, le citazioni asserzioni sulla potestas ordinis ed ancor più sul sacramento ordinis sono di fatto indovinate, ma restano asserzioni aperte, inconcluse, undimensionali, bisognose di completamento. Sesto, implicazioni ecclesiologiche nei decreti di riforma. Anche nelle discussioni sui decreti di riforma del Concilio e nei testi definitivi si esprimono numerose questioni ecclesiologiche. La trattazione dell'obbligo di residenza per i vescovi si sviluppò durante l'intervento degli spagnoli, secondo il quale il Concilio dovrebbe dichiarare che l'obbligo di residenza dei vescovi è diritto divino. Sul piano della discussione ecclesiologica e nelle dispute sui fondamenti dell'ufficio vescovile e sul rapporto tra primato e episcopato, questa controversa questione si collegava alle dispute sul decreto sull'ordo e era già stato discusso. Nel suo lavoro Freitag rimanda al fatto che nei decreti di riforma si era affermato ciò che non avrebbe potuto imporsi nei decreti dogmatici, cioè l'incarico personale di cura delle anime ed il mandato personale di cura delle anime del vescovo e del suo ufficio. Il modello del vescovo come buon pastore ha praticamente collocato i vescovi in una posizione chiave anche nella gerarchia giurisdizionale. Riguardo a queste disposizioni di riforma, Alberico osserva che alla loro base sta una ecclesiologia pratica, quella della salus animarum. Anche di lì sottolinea che il Concilio, perlomeno di fatto, ha rafforzato l'autorità dei vescovi nelle loro diocesi per promuovere la riforma della Chiesa. Ciò è giusto, e tuttavia, a tale riguardo, cioè per il lato ecclesiologico, il Concilio restò a metà strada. In numerosi casi, dal primo periodo di sessione sino al terzo, nei decreti di riforma, fu conferito ai vescovi il mandato di intraprendere misure di riforma tampa apostolice sedis delegati. Già nel primo periodo di sessione il vescovo di Fiesole, Braccio Martelli, rese palesi alcune riflessioni contro questa formula, dicendo: nel corso del dibattito nella congregazione generale sul decreto di residenza del 24 febbraio 1547, di deplorare molto il fatto che i vescovi debbano agire nelle loro diocesi su commissione di un'altra autorità estranea e di ritenere insopportabile che in nome dell'autorità papale, cioè di un'autorità estranea, essi debbano guardare se tutto è in ordine nei greci loro affidati. Con questo artificio di far divenire attivi i vescovi, tampa apostolice sedis delegati, si voleva certamente da parte papale soddisfare le esigenze di riforma, ma d'altro lato si volevano lasciare intatti le prerogative e l'apparato curiale reclamati dal papato sin dall'alto e dal tardo medioevo. Ielina ha ragione quando afferma, a proposito di tale sorta di delegazione apostolica, che essa è stata una soluzione del problema del potere vescovile che è elegante da un punto di vista canonistico, ma insoddisfacente da un punto di vista teologico. E Ielina aggiunge: essa rimuoveva certamente i più vistosi abusi e migliorava la posizione dei vescovi nelle loro diocesi, ma non afferrava il problema alle radici. Soltanto la decisione delle controversie teologiche sui fondamenti e l'estensione del potere dei vescovi avrebbe potuto offrire una soluzione soddisfacente. Fine della citazione. Settimo, aspetti ecclesiologici nella configurazione formale dei decreti conciliari. I decreti del quinto concilio Laterano, come pure degli altri concili papali dell'alto medioevo, hanno la forma di costituzioni papali. Così iniziano all'incirca i decreti del quinto concilio Laterano all'epoca di Leone X: Leo episcopus servo servorum mei a futuram re memoriam sacro approvante concilio. A differenza da tale formulazione, la forma tridentina riprende invece in parte quelle di Costanza e Basilea. I decreti trentini recano la formula introduttiva sacrosanta ecumenica e generalis tridentina synodus in spirito santo legittime congregata presidenti Basilea e istem apostolice sedis legatis. Le dispute avvennero all'inizio del primo periodo di sessione proprio attorno a questa formula. Nella congregazione generale del 4 gennaio 1546, il vescovo di Fiesole, Braccio Martelli, pretendeva che al titolo del decreto da approvare dovesse essere aggiunto Universale Ecclesiam Representans. Il presidente del Concilio del Monte rifiutò questa formula. Nella sessione solenne del 7 gennaio 1546, più di una mezza dozzina di padri conciliari reclamava la detta aggiunta. Si giunse allora a vivaci discussioni sulla forma del titolo dei decreti conciliari, cosicché il primo presidente del Monte si vide indotto ad acconsentire alla questione controversa nella congregazione generale del 13 gennaio 1546. Egli dichiarò che sarebbe stato meravigliato che si fosse disputato sul titolo del decreto conciliare, poiché la maggioranza del plenum avrebbe consentito alla forma senza la giunta richiesta. Egli chiedeva ora ai padri se la proposizione menzionata dovesse essere aggiunta al decreto approvato. Poiché la minoranza insisteva nella propria opinione, aggiunse che avrebbe senza esitare risposto positivamente alla questione se il Concilio rappresenti la Chiesa nel suo complesso, ma di essere contrario a mettere mano alla giunta richiesta. Dice, infatti appena 30 vescovi erano presenti e si aspettavano ancora il rappresentante dell'imperatore e della maggior parte dei re. Il secondo presidente, il cardinale Cervini, che aveva studiato la storia dei concili, subito dopo prese ampiamente posizione sulla controversa questione. Egli rifiuta decisamente la giunta richiesta con più motivazioni. Da un lato, il Papa ha usato in tutti i documenti che riguardano il Concilio il titolo Ecumenicum et Generale Concilium. I legati, dicono, potrebbero quindi discostarsi senza speciale mandato da questa formulazione. Dall'altro, il titolo richiesto avrebbe offeso i luterani. In tal modo, cioè, dice, non li si sarebbe lasciati parlare né sarebbero stati ascoltati e sin dal principio sarebbero stati esclusi dalla Chiesa in quanto eretici. Poi Cervini si occupa ampiamente della storia dei concili. A suo avviso altri concili non possono essere presi ad esempio. Il Concilio di Costanza utilizza il titolo Universalem oppure Catholicam Ecclesiam Representans in 15 decreti, tutti riguardanti però la procedura contro i tre papi, poiché il Concilio non aveva considerato legittimo nessuno dei tre. E quindi questa denominazione era stata rifatta. Nel decreto Ex Sancta del 6 aprile 1415, quando il Concilio usò la denominazione Ecclesia Cattolica Representans, si parlò espressamente di E Synodus, in quanto in questa epoca non era nessun Papa legittimo. Nei 15 casi in cui il Concilio di Costanza usò la formula Ecclesia Universale Representans, si trattò sempre di questioni di giurisdizione. Si può dire, proseguiva Cervini, che il Concilio di Costanza è stato recepito solo nelle sue dichiarazioni di fede e che solo le decisioni a queste relative sono state approvate da Papa Martino V. Tuttavia, quanto i menzionati 15 decreti non avrebbero contenuto verità di fede, neppure queste sono state approvate da Martino V e di conseguenza non vanno da noi recepite. Se il Concilio di Basilea ha usato la formula Ecclesia Universale Representans, osserva Cervini, ciò non può in alcun modo servire da modello. Infatti questo Concilio è stato schismatico e rifiutato dalla Chiesa. Sin qui la motivazione di Cervini. Si continuò a rifiutare la formula esigita da una minoranza. Il motivo vero e proprio è ragionevole. Da parte della Curia si voleva evitare sin dall'inizio tutte le risonanze conciliaristiche. La formula richiesta però era legata nel modo più stretto al conciliarismo del V secolo. Ottavo, conclusione. Avevamo all'inizio osservato che non vi fu alcuna concezione ecclesiologica unitaria al Concilio di Trento. La nostra esposizione, necessariamente disegnata a grandi linee, ha confermato questo parere. E tuttavia sono emerse nel Concilio nei decreti e nelle discussioni diverse concezioni ecclesiologiche che sono parzialmente divergenti. C'è il concetto del gallicanesimo dei francesi, per i quali la Chiesa complessiva consiste di una comunità di chiese particolari, mentre il Papa sta al vertice di questa comunità disiuntive, non congiuntive, come essi sottolineano. Egli è anche centrum unitatis, garante dell'unità della Chiesa nella molteplicità delle chiese locali. Per la concezione gallicana, l'organo supremo della Chiesa è il Concilio, secondo il decreto ex ante del Concilio di Costanza, che per i francesi conserva carattere vincolante. Il Papa è sottomesso alle decisioni del Concilio. Per questi motivi i francesi rifiutavano il titolo papale Universalis Ecclesiae Episcopus e insistevano sul fatto che il Vescovo riceve il suo potere di guida, giurisdizione, immediatamente da Dio e non attraverso la mediazione papale. Rispetto a ciò, la concezione degli spagnoli è diversa. Per loro non si trattava primariamente di sminuire per principio la posizione del Papa nella Chiesa. Il loro vero scopo era rafforzare la posizione dei vescovi nell'interesse dell'attività vescovile e della realizzazione di riforme nelle loro diocesi. Di qui la loro rivendicazione che l'ufficio vescovile è diverso pure divino dall'ufficio sacerdotale e la loro battaglia, a dire il vero, inutile, perché il Concilio abbia la capacità di deliberare che l'obbligo di residenza per i vescovi è di diritto divino, di pure divino. In tale caso si sarebbe impedito al Papa una esenzione da questo obbligo mediante dispensa. Tutt'altra era la concezione romano-giuliale rappresentata dalla maggior parte degli italiani, ma non proprio da tutti. Essa partiva da una posizione dominante del primato papale all'interno della Chiesa. In quanto Universalis Ecclesiae Episcopus, il Papa doveva avere il compito conferitogli da Cristo, ascendi, recenti e governanti universale dell'Ecclesia, fondazione del Concilio di Firenze. La pretesa sollevata dalla frase romana che il Papa è Universalis Ecclesiae Episcopus partiva da una concezione collettiva del primato, collettive, secondo la quale l'intera Chiesa viene considerata come una unità, un grande ambito giurisdizionale al cui vertice sta il Papa. I singoli vescovi ricevono certamente i loro poteri di ordinazione da Dio, ma la loro giurisdizione dal Papa. Ciò ricorre anche nell'artificio che ai vescovi tampam apostolice sedis delegati venivano concessi pieni poteri per misure di riforma nelle loro diocesi. A causa delle dispute tra la concezione romano-curiale e gallicana della Chiesa, il Concilio corse il pericolo di dividersi nella primavera del 1563. Per impedirlo furono evitate le dirompenti questioni della natura e della definizione del primato papale, del rapporto Papa-Concilio, della definizione teologica e giurisdizionale dell'ufficio vescovile. Carlo Borromeo scriveva alla fine del gennaio 1563 ai legati del Concilio che è disconveniente il fatto, ma in sicran contraddizione dei voti, come avvenuto in questa materia. Qui si cela ancora l'antica concezione della Chiesa, secondo la quale è esigita una unanimità, un unanimus consensus nelle decisioni di fede dei concili. Ciò significa che la definizione del primato papale, la determinazione dell'ufficio vescovile, e la posizione del Concilio restavano domande aperte per il futuro, anche se singoli raggruppamenti, papalisti da un lato, gallicani dall'altro, pretendevano possedere risposte definitive. Anche le confusioni che si produssero nelle dispute attorno al pieno diritto di partecipazione al Concilio e le argomentazioni parzialmente confuse e contraddittorie adotte per negare il diritto di voto dei procuratori non mostrano alcuna concezione ecclesiologica unitaria. Il poco entusiasmo ecclesiologico nel conferire in certi casi a vescovi in quanto legati papali, tanto quanto non scusate se esiste legati, pieni poteri nella realizzazione di riforme, si mostrò nel seguito un ostacolo, poiché le misure dei vescovi furono spesso intralciate dalle dispense, esenzioni, privilegi, eccetera, papali. Va anche osservato nell'insieme una tendenza al rafforzamento del centralismo romano. Per fare un esempio, nella liturgia le tradizioni locali venivano respinte a favore di un unitario missale romano obbligatorio per la Chiesa nel suo insieme. Al Concilio di Trento, e questo possiamo stabilirlo, fu presente una ricchezza di idee, elementi, concezioni ecclesiologiche che in parte stavano gli uni accanto alle altre, in parte si contraddicevano. Molte cose restavano aperte per il futuro, anche se, come ci ha notato, singoli raggruppamenti perseverarono nelle loro concezioni, ritenendole le uniche valide. Così lo sforzo della cerchia romana curiale per rafforzare il primato papale e il centralismo romano è evidente, anche se non poté imporsi del tutto. Molte delle questioni aperte furono riprese nelle discussioni attorno al gallicanesimo nel VII e XVIII secolo e nelle discussioni episcopalistiche della Germania nel XVIII secolo. Una risposta unilaterale a queste domande avvenne nel XIX secolo nel ultramontanismo e nel primo Concilio Vaticano. E ai nostri giorni si sono accese di nuovo acutissime discussioni ecclesiologiche. Ciò conferma di nuovo il fatto osservato all'inizio che l'ecclesiologia non è una costante immodificabile, bensì influenzata da una mescolanza di elementi politici, sociali, comunitari e dallo stato di consapevolezza teologica della relativa epoca. Grazie. Ringrazio il professor Ganser della sua relazione così chiara, completa e obiettiva, che ci ha fatto capire bene esattamente che cosa pensavano i vari gruppi teologici presenti a Trento. In questo senso è un modello di obiettività storica questa relazione. Ringraziamo anche per la sua lingua italiana che è venuta incontro alle esigenze di vari nostri ascoltatori.